abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Palla dentro per Hamsik, si sblocca il capitano, subito fortissimo parte Hamsik, 114 gol per lui con la maglia del Napoli, a un passo dalla storia, a un passo da Maradona. La strada è ancora lunga, l'importante era partire con piede giusto e 7 vittorie in prime 7 partite è una cosa incredibile, ora speriamo di continuare così. La Simmenzo! E il colpo di testa del 2-2! E la gioia cristante, abbracciato la Petagna e da tutti gli altri come un lampo all'improvviso, al minuto 67, tagliato fuori la difesa della Juve. Dispiace perché abbia lasciato 2 punti importanti, perché facevamo la 7ª vittoria, perché la squadra meritava assolutamente di vincere per la prestazione che ha fatto. Parte Brozovic ed è 2-0, ancora Marcelo Brozovic, 22esimo minuto. Pallone per Dzeko, Dzeko prova ad arrivare in zona tiro, Dzeko, rete, gol bellissimo, e la Roma in vantaggio. Spremuta riassunto di una giornata di campionato tutt'altro che banale, così come non banale sarà la puntata di oggi, perché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. Pardo c'è? C'è? Eccolo! Eccolo! Giuseppe Carucciari, buongiorno! Ciao a tutti! E adesso sarai convinto che la Lazio va messa tra quelle che inseguono la Champions League perché è più forte del Milan, giusto? Non lo so, lo sai? Più forte lo o non io. Più forte non è una categoria che lo sai utilizzo. Più forte che cosa vuol dire? I punti, te lo spiega i giocatori, cosa? Giancarlo Marocchi. Vuol dire niente, vuol dire, cioè, così vuol dire più forte. Alla fine sì, chi fa più punti è più forte. Come mi sembra ogni tanto, mi sembri quelli, sai, quando a 17 anni magari è più forte il Milan o più o forte più l'Inter. Va bene, così non sono... cioè, usiamo concetti che la gente capisce. Ma non lo sto trattando così, però c'entra. Ma sono abituato. Se si conosce una domanda, chi è più forte? Allora, c'è il compleanno della radio il 4 di ottobre ed è da quel tempo che conosco Cruciani, 18 anni, hai capito? Giancarlo Marocchi, io voglio parlare con lui. Ciao a tutti. Ciao Giancarlo. Strano che caro Cruciani, ma tu ci regali sempre certezze, poi anche se durano un giorno, una settimana, che ti prega, proviamo a dire chi è più forte delle due, dai. Ma sì, ma in questo momento è chiaro che è facile dire la Lazio è più squadra, il Milan è in costruzione, tutte cose che sentiamo. Però io vorrei andare sulla panchina del Milan, non in quella della Lazio. Perché, scusa, tu come Giancarlo Marocchi o tu come io allenatore? Io come Giancarlo Marocchi, che non sono un allenatore, forse proprio per quello, perché la Lazio magari è più semplice, ma secondo me il Milan può arrivare prima della Lazio perché è potenzialmente più forte. Allora, già che ne parlavamo ieri nei corridoi di Sky, volevi vedere qualcosa di forte, hai visto qualcosa di forte. Ma siamo forte, tutti. Non ho detto niente fino adesso. Di forte. Non va bene. Ma cosa, cosa vuol dire? Di forte, di alta gradazione. Ma non mi irriti. Sei tu che mi irriti. Volevo vedere qualcosa di interessante. Ti piace? Interessante. Abbiamo visto qualcosa di interessante, di non banale. Anche a San Siro siamo tutti sorpresi perché non abbiamo ancora visto una foto di Ancelotti sui giornali di oggi. È vero, no, ma quella non la vedremo, anche perché ormai a lui di lui ci occuperemo quando si parlerà di nazionale eventualmente, dai. Non credo, club ormai dici, Pier? No, io penso che Ancelotti sia uno che ormai è arrivato a un livello talmente alto, si è abituato a degli standard, non parlo di aspetti economici, parlo di standard proprio di adrenalina e club di livello top, che anche quello, il passo indietro sia difficile, nel senso io l'ho sentito tante volte dire un giorno tornerò al Milan, un giorno tornerò alla Roma, un giorno andrei in nazionale, ed era onesto, perché poi Carlo è una persona onesta, quindi non è che, ma in realtà, non Piero, è che voleva dire una bugia, è che secondo me ormai è in una dimensione un po' diversa, quindi per convincerlo a accettare bisognerebbe Io una parola chiara l'ho sentita dire solo sulla Roma, in realtà, eh? Cioè sul Milan in realtà sì, poi ci furono dei contatti un paio di anni fa, quando ancora non c'era questa nuova gestione, però una parola chiara la disse solo sulla Roma, forse però Totti intanto ha smesso, ti ricordi, no, che Totti gli disse però sbrigati perché tra un po' smetto, poi Totti andrà avanti altri 3-4 anni, però ma sì, cioè che Ancelotti sia un uomo sentimentale non c'è dubbio, e quindi che rimanga molto legato agli ambienti dove è stato bene, questo è indiscutibile, però è vero pure che ormai ha una tale dimensione che è difficile, cioè, secondo me al prossimo giro ti faccio per dire di una tipo l'Arsenal. Ho ritrovato una dichiarazione del novembre del 2013, mai in nazionale, poi le cose che si dicono come al solito si possono smentire 40 volte, mai in nazionale, ma se Roma e Milan ne chiamano puntini puntini. Non ci stiamo girando intorno, classifica della Serie A che dice Napoli primo, Juventus che in rimonta subisce, cioè, no, tu hai impostato la cosa sul Milan dicendo no, caso di andiamo, siccome vuoi chiarezza, no, allora chiediamo subito a Marocchi una cosa. Allora, le dichiarazioni di un paio di settimane fa, di una settimana fa, non mi ricordo, dopo la partita con la Sampdoria di Fassone, mettono Montella al di là delle rassicurazioni di oggi, eccetera, eccetera. Ma ieri c'è Mirabelli che ha fatto un prezzotto buono. Mettono Montella in una situazione di pericolo, secondo te, sì o no? Sì, sì, assolutamente sì, era un ultimatum. Montella, con una prestazione generosa della sua squadra, ecco, ha salvato la panchina, a parte che non saprei chi potrebbe sostituirlo, ma quello non è un problema nostro, ma le parole di Fassone erano assolutamente un ultimatum. Poi dopo si può stare dalla parte di Fassone o dalla parte di Montella. Dalla parte di Montella uno dice ma ci vogliono almeno 6 mesi con tutti questi giocatori nuovi, dalla parte di Fassone, cavolo, con tutti questi giocatori bravi, tu dovresti già essere almeno a livello dell'Inter. Sì, vediamo, aspettiamo un attimo, secondo me. Posso parlare della Juventus che... Volevo sapere una parola chiara su questo, perché oggi uno dei temi è sicuramente questo, cioè Montella rischia... Certo. No, allora, prima di aprire le danze su quello che vuoi tu, fammi fare questa specie di sondaggio anche con Pier. Carità. Dai, fammi co-condurre insieme a te. Vai, Pier, Montella rischia piacere. O no? Montella rischia, certo. Rischia se dovesse, in quale caso? Se dovesse perdere il derby, oppure comunque per dirti a fine ottobre c'è Milan Juve, cioè se ottobre non svolta, rischia secondo me, assolutamente. Allora, col permesso di Cruciani, posso chiedere a Marocchi da adesso Juventus? Vai, sono rassicurato. No, posso, sei rassicurato, vai. Bene. Allora, Giancarlo, la Juventus che subisce la rimonta dell'Atalanta, che prende sti due gol, sono 5 totali come il Napoli, quindi così è se vi pare. Che cosa significa la partita di ieri? Ma che la Juventus è in questo momento, perché tanto se gioca Mandzukic, attaccante di sinistra, fluidità di gioco non ci sarà mai. Poi era una partita da 3-1 che la splendida Atalanta ha trasformato in un 2-2. Quindi la Juve sarà comunque sempre fortissima e efficace. Il Napoli bello finché ha l'80-90% della condizione fisica. Se invece la Juve, Allegri, piano piano inizierà anche a usare Bernardeschi, Douglas Costa, cioè gli esterni sugli esterni, centravanti a fare il centravanti, ecco che la Juve potrebbe diventare anche bella, fluida come gioco. Però insomma, ieri era 3-1, ma è finita 2-2. Cioè non 3-1, ma non sto parlando degli arbitraggi, a me proprio quelli assolutamente li tolgo come evoluzione della gara. E il Napoli? Come lo mettiamo il Napoli, Cruciani? Dove lo metti? Come lo vuoi mettere il Napoli dopo sette vittorie? Come logicamente favorito, però... Voglio vederlo con i confronti diretti, perché questo è un campionato che si decide fino adesso, ci pensavo prima, fino adesso il Napoli, non dico che ha avuto vita facile, perché non... anche se quest'anno la differenza... La differenza quest'anno tra le grandi squadre, diciamo, e le altre sembra più marcata in alcuni casi, no? C'è una statistica che è uscita oggi per cui le neopromosse è più marcata, è più marcata. Però certo il Napoli adesso, però domenica c'ha due partite, credo, prima la Roma poi l'Inter, no? Sì. Per cui oggi sembra in grado di battere chiunque, non dico con facilità, ma con grande tranquillità, anche risolvendo situazioni che l'anno scorso non avrebbe risolto, partite che magari avrebbe pareggiato. Questa è la grande novità di quest'anno del Napoli. Però adesso va verificato in queste due partite. Se le vincesse tutte e due, certo, se arrivasse a 9 vittorie consecutive, è chiaro. Giancarlo? Eh beh, sì, Napoli c'è, cioè, un grosso problema quello di Milik, perché lì davanti ci stava una rotazione con quattro giocatori, o comunque è chiaro che non a parità di minuti, ma ce ne volevano quattro buoni. Sì. Ho l'impressione che, cioè, pensare a un'altra invenzione, che ne so, Rogo, Zelischi o Giaccherini, che diventino pure centravanti questi, mi sembra difficile, dopo la splendida invenzione di Mertens. E quindi tre sono pochi, rischiamo di avere il Napoli che arriva a marzo, quando conta negli scontri diretti, con la lingua fuori, in condizione fisica non eccezionale. No, questo sì, un altro elemento secondo me, anzi sono due gli elementi. Uno è il solito, ogni tanto viene fuori il piagnisteo di Sarri, no? Sul calendario, non so se siano delle cose fatte apposta oppure l'uomo è fatto così nei suoi pregi. Inutile, ognuno di noi ha pregi, pregi e difetti. Inutile piagnisteo di Sarri. Assolutamente inutile. Ovviamente l'ambiente comincia a pensare che il VAR punisca la Juventus, ho letto. Parliamo dei commentatori da qualche parte. Aspetta, l'altra cosa è un po' psicologica secondo me, cioè quest'anno il Napoli è all in, cioè il Napoli o vince quest'anno o non vince chi, sì, questo è l'atteggiamento psicologico, e questo può essere oggettivamente un limite, cioè la Juventus in fondo se non vince quest'anno non è un dramma. Per il Napoli sarebbe un dramma, e questo psicologicamente può essere una cosa che conta. Per questo gruppo. Giancarlo, ti ringrazio. Ciao, Giancarlo, alla prossima. Ciao. Allora, adesso traffico, poi Pardo resta con noi, Cruciani resta con noi. C'è il traffico pure, sì, c'è il traffico alle 14:15. Perché non togliamo sto traffico alle 14:15? L'ho già chiesto, ho già fatto. Vabbè, incredibile. Pierre, metti la buona parola pure tu, no? Anche tu, traffico, pure non un quarto sabato mattina. Poi vado qua giù e faccio una petizione. Traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Non lo puoi, secondo me, adoperare per ogni contatto. E io oggi, sinceramente, dalla porta non avrei fischiato né il rigore loro e neanche il nostro, nessuno dei due. Che poi uno può dire sì, c'erano tutte e due, sì c'erano, ma nel fantacalcio, cioè nel calcio da laboratorio, nel calcio vero, non sono rigori. Ma io gli episodi li guardo sorridendo, perché io ho una mia idea, che la VAR è uno strumento importante, ma non deve essere usato sugli episodi soggettivi, solamente sugli episodi oggettivi. Altrimenti sono convinto che a marzo, quando le partite contano e i punti diventano pesanti, le partite possano durare anche dalle 3 alle 4 ore. Cioè il VAR non è un arbitro, il VAR è un aiuto tecnologico. O lo usi uguale per tutti o non lo usi. O questo qui è un aiuto per gli arbitri o è una pagliacciata. Al momento è una pagliacciata. Se fossi la Juve io metterei un osservatore in tutte le partite adesso e starei a spulciare un minuto prima, due minuti prima che cosa è successo di un gol o di un rigore, una roba del genere. Perché io credo che tenere lo stesso comportamento in tutte le partite è impossibile. Questo è un precedente, una cosa che diciamo assurdo, che rovina il calcio. Globone dedicato all'argomento VAR. A chi si riferiva Mauro? All'episodio di Mandzukic, dell'annullamento del gol di Mandzukic, o era una di... No, si riferiva all'episodio di ieri. A Mandzukic? Sì, all'episodio di ieri, comitata di Lichtsteiner, azione rivista, ma non è... Io adesso, Pierre era lì, il fallo di Lichtsteiner, quanti secondi è prima del gol annullato? Dimmelo tu, perché ho fatto 13 secondi. Vabbè, io ho detto in diretta che il tema lì non era tanto sul contatto, che chiaramente c'è, perché Lichtsteiner fa fallo e anzi si può discutere sul tipo di cartellino, ma su questo elemento, cioè sulla continuità o meno, ma cioè, ragazzi, adesso a prescindere, togliamo il bianco nero e il nero azzurro, no? Togliamoci, se uno comincia a considerare l'azione del gol di un gol, diciamo, di una squadra, non c'è fuorigioco di Mandzukic, non c'è un'irregolarità vicino all'area di rigore, non c'è un'irregolarità mentre quello fa il cross, che ne so, lo stesso giocatore, se si parte dal consiglio all'azione 13 secondi prima, è finita. Cioè, è oggettivamente finita. Allora riscriviamo. Cioè, questo è il continuo. Allora. Non sto parlando di Juventus. La gomitata c'è, siamo tutti d'accordo. Il Papu Gomez ha fatto vedere sto labbro, eccetera, per dire che c'è la gomitata. Va benissimo, va tutto bene. C'è il fallo, probabilmente anche l'espulsione. Non parlo di questo. Però, se si fa così, allora anche un fallo laterale non dato può essere considerato come Giuseppe, l'inizio di un'azione allora, che poi ha portato il gol. È una cosa ridicola. Sono, dai. Sono d'accordo con te. Allora, riscriviamo il protocollo di applicazione del VAR, perché il protocollo dice questo: ogni gol che viene segnato, viene, c'è un silent replay, no? Silent check. Va bene, d'accordo, ma da quanto prima? Non c'è scritto da quanto prima viene considerato. Ma tutta l'azione da quando? Tutta l'azione. Guarda, allora, se vogliamo essere formali, il vero tema è questo, no? Nel senso che l'azione non si interrompe, 13 secondi sono un tempo biblico ovviamente nel calcio, quindi capisco il punto di vista di Giuseppe Crociani e l'ho detto io in telecronaca che il tema sarebbe stato sicuramente quello, non l'episodio ma il fatto che fosse più o meno considerabile come un elemento continuo all'azione che poi porta al gol. È vero pure che non c'è un'interruzione. Se ci fosse stato un fischio, un pallone in fallo laterale, certo, allora a quel punto non c'erano dubbi. Ma siamo alla. Per, cioè, siamo non dico... come sempre del regno dell'interpretabilità, il vero tema è questo: che noi dicevamo bisogna ridurre la discrezionalità arbitrale, e nonostante il VAR, la discrezionalità arbitrale non la toglie. Deve essere una cosa anche l'applicazione del VAR, non dico comprensibile agli spettatori che poi possono guardare, perché carità, ma deve essere una cosa anche comprensibile a tutti. Cioè, quando tu arrivi ad annullare il gol in cui oggettivamente vicino non c'è una maglia tirata, non c'è Mandzukic che si aiuta in qualche modo, ma gol, l'azione Giuseppe, è 13 secondi prima, non è interrotta, c'è una continuità. Sì, c'è no, una ma continuità. Perché io non sto dicendo, ma io non sto dicendo che è una porcheria, non sto dicendo che è una cosa, non dico come dicono a Napoli, ecco, vedete, l'anno scorso qualcuno ha detto oggi, come dicono a Napoli, Raffaele non credo, l'anno scorso sarebbe finita 3-1 per la Juve, lasciamo perdere Juve, cioè, perché potrà accadere anche a Napoli una cosa di questo tipo. Secondo me un'azione come quella, andare a pescare un vizio a 13 secondi prima del gol di Mandzukic, a mio parere è una follia, e non sono d'accordo con le parole di Buffon, io sono abbastanza d'accordo con la VAR, ma 13 secondi prima per me non ha senso. Dico solo questo. A Napoli cosa dicono? Raffaele Auriemma, buongiorno. Dicono che Crociani ha una debolezza nei confronti di Napoli, perché quello che lui dice e sostiene essere detto da Napoli lo dicono tutti gli sportivi d'Italia, però probabilmente... Ma cosa, scusa Raffaele? Dimmi. Guarda, Giuseppe, io ti stimo, però le cose che dici su questi argomenti a volte penso che lo fai per fare polemica. Ma però io ho detto a prescindere da Juventus e Napoli, Ma infatti a prescindere da tutto, un'azione viziata da un intervento con una gomitata che l'arbitro non vede e poi finisce in gol, non si deve interrompere l'azione, non si deve 13 secondi prima, Raffaele, 13 secondi prima. Quindi, ma meno male che c'è che ti permette va bene. 13 secondi dopo di annullare un gol. No, ma se tu pensi che quel gol l'annullamento di un gol, ma io non dico che è stato contro il regolamento del VAR, è sicuramente norma di regolamento, perché certo non è che, lo è. Non certo è che lo si autocastrano in questo modo, no? È evidente. Però secondo me apre mille possibilità, anche un fallo laterale non dato, questo, allora. Questo è vero, era escluso. Non è previsto, capito? C'è un ulteriore elemento che secondo me è abbastanza clamoroso, che viene dato il cartellino giallo, e sappiamo che invece qualora l'arbitro avesse ravvisato poi un'intenzionalità avrebbe dovuto dare certamente il cartellino rosso. Il cartellino giallo è per sua stessa natura una delle fattispecie che vengono escluse dal VAR, quindi non c'è dubbio che il VAR qui è stato applicato perché è stato considerato in relazione al gol, quindi il vantaggio che la Juve con l'intervento di Lichtsteiner in quell'azione lì si è presa è quello che poi ha portato al gol. Certo. Dal punto di vista formale, ripeto, siamo nell'ambito veramente, siamo in un'area grigia. Poi alla fine, io capisco il ragionamento da Aurier, ma sicuramente un'azione che nasce con un intervento irregolare, chiaramente irregolare, alla fine è il male minore. Che un atto violento, perché no? Quello è un atto violento, la gomitata, non è il fallo laterale. Senti Raffaele, allora spiegami queste due cose: il rigore dato alla Juventus, concesso alla Juventus, è sbagliato da Dybala, col VAR c'è, non c'è, primo, secondo te non c'è, siamo grosso modo tutti d'accordo, però ce n'è un altro su Higuain, sì, esatto, all'ultimo minuto, sì, e allora lì che è successo? Si sono spente le televisioni? Perché lo chiedi a me? Bisogna chiederlo a Orsato. Su questo devo dire una cosa. Che a me sinceramente, ecco, per esempio il Higuain cinturato è uno di quei casi, se l'arbitro ha la sensazione che quella roba là sia fallo e non ce l'ha avuta, allora va bene, altrimenti il VAR che cosa può aggiungere di più? Cioè non può aggiungere nulla di più, perché vedi quella mano intorno, se pensi che quella roba là sia una cosa che abbia provocato un danno a Higuain, fischi il rigore, se non lo pensi non è che dopo il VAR aggiunge qualche cosa, per cui io non, su quella cosa lì, come invece molti juventini fanno online in rete, fanno dei drammi, allora avete visto Higuain, non gli hanno, cioè secondo me quel rigore si poteva dare come non si poteva dare e il VAR non aggiunge niente. La gomitata, certo, il colpo di spalla c'è, però dai ragazzi, cioè, se si dà un rigore così su quella, sulla barriera, cioè siamo alla follia, cioè, no, quel rigore è folle, ma soprattutto è folle il fatto che sia stato rivisto, appunto, la cosa incredibile è che è stato rivisto. Io ti dico, ma è stato rigore, rivisto perché per me, secondo rigore, il rigore sulla trattenuta, sì, di Higuain, per me lui l'ha rivisto perché Orsato ha chiesto ad Amato, lui non ha avuto un'immagine che dice no vabbè cambio idea, e ha confermato la decisione presa sul campo, questa è la regola. Però capisci che allora abbiamo, cioè, torno al discorso di prima, cioè questa roba qui serviva a risolvere, a togliere un po' di discrezionalità arbitrale e evitare alcuni errori gravi. Ieri è successo il contrario. Poi si può difendere tutto in punta di diritto, però si fa veramente. Vabbè, ma scusa, l'arbitro considera, evidentemente, Raffaele, scusami, l'arbitro considera la spalla un pezzo, la palla anche su un pezzo di braccio, e considera sentire Auriemma che dice. Cerco di capire adesso, da questo momento in avanti, tutte le volte che un calciatore prenderà il pallone con quella parte del corpo sarà calcio di rigore, perché l'arbitro ha sdoganato. Beh, lì c'è un movimento volontario, logica. Raffaele, lì c'è un movimento volontario. Un movimento volontario di cosa? Del braccio. Movimento del braccio, guardate, quello l'ho rivista bene. Lì c'è un movimento del braccio che oggettivamente induce all'errore. Esatto. Quindi l'arbitro che in presa diretta vede il calcio di rigore lo assolvo al 100%, certo, perché onestamente, guarda, l'ha detto pure Gasperini, non mi ricordo se in onda o fuori onda. L'ha detto perché ha pareggiato. No, ma voglio dire che quel movimento lì è un movimento che di fatto porta l'arbitro a sbagliare, quindi su questo non c'è dubbio. Ma torniamo al grande tema, cioè che fino a sette giornate fa gli arbitri, quando sbagliavano perché vedevano male a velocità reale, arbitrare è il lavoro più difficile del mondo, e c'era questo elemento. Quando D'Amato, su suggerimento di Orsato, va a rivedere quella roba lì, ma piuttosto si prendesse due minuti in più per dare una valutazione. Scusate, se, io voglio... perché poi, vabbè, ragazzi, scusate, ma penso, magari mi sbaglio, allora, che la cintura Higuain, che invece secondo me poteva essere calcio di rigore, o perlomeno potesse meritare almeno di andarla a rivedere col VAR, e lì perché non vanno? E questa è una domanda, però fammi chiedere ancora una cosa ad Auriemma che non riguarda il VAR e la, come si chiama, l'anatomia umana. Braccio, gomito, avambraccio, polso. Vi nascondete ancora a Napoli? Ma non mi pare. Ci nascondiamo da che cosa? Dalla parola che non si può, allora, dire, scusami, quella per cui Sarri fa il giro largo. Ma certo che bisogna dirla, è giusto. E Sarri lo dice? Sarebbe inappropriato e anche da dilettanti dire che dopo sette giornate il Napoli vincerà lo scudetto. Ma no, ma nessuno, no, ma nessuno lo dice. Nessuno lo dice. E allora da che cosa ci dobbiamo nascondere? Ma infatti il Napoli lo può vincere? Ma non ci siamo mai nascosti su questo. Ma pure prima che cominciasse il campionato. Nemmeno Sarri? Ma Sarri porta un ragionamento che io condivido. Dopo un mese tutti possono essere primi in classifica. Bisogna vedere dopo 5-6 mesi quante squadre resteranno lassù, e dopo 9 mesi ne resterà soltanto una. Ma che gli vogliamo dire a Sarri? Ma sì, che la Juve ha un organico più forte del Napoli? Che è la squadra più forte del campionato? Lo vogliamo negare? Che poi il Napoli giochi meglio di tutte, ed è una cosa che vedo ad Allegri dà molto fastidio sentirlo dire, questo è innegabile, ma sì, è innegabile pure che la Juve ha più disponibilità nell'organico. No, ma io trovo assolutamente corretto quello che dice Raffaele, cioè è normale che Sarri dica queste cose, altrimenti se dicesse puntiamo allo scudetto e lo vinciamo all'80% sarebbe un cretino, un pazzo, ma cosa questo è evidente. Dovrebbe smetterla di parlare di questa storia del calendario, quello sì, come sai. Sì, la storia del calendario, la storia comincio dei... Comincio a pensare che sia un vezzo, può essere, può essere. Perché... Vabbè ragazzi, sì, mi fanno segno, devo fermarmi. Ci fermiamo, dai. No, la borsa è fondamentale, ma la discussione era interessante. mi fermo, va bene. 14:32, grazie a Raffaele Auriemma, ma poi un sacco di ascoltatori. 800240024, torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Rieccoci con Giuseppe Carugiani qui con me, con Pierluigi Pardo naturalmente, con un nutrito manipolo di ascoltatori. Sì, faccio un'ultima considerazione, vai, caro Pier, che è questa. Allora, siamo così sicuri che senza VAR, cioè nell'epoca precedente al VAR, si sarebbe gridato allo scandalo per la questione Gomez-Lichtsteiner? Cioè, io dico che senza il VAR il gol sarebbe stato ovviamente convalidato, la Juventus sarebbe andata sul 3-1 e probabilmente avrebbe vinto la partita. E secondo me quell'episodio lì sarebbe stato valutato, certo un episodio importante, ma non un episodio decisivo. Cioè sarebbe stato considerato un episodio 13 secondi precedente al gol, che non ha avuto alcuna influenza poi nello sviluppo successivo dell'azione. Certo ha avuto un'influenza perché è stato commesso un fallo, d'accordo, però voglio dire, irregolarità se ne possono pescare a decine, a tonnellate. Ma adesso questo veramente lo dico a prescindere dalla Juventus, perché la stessa situazione può capitare anche contro la Lazio, che è la mia squadra, o anche contro il Napoli o contro la Roma. Cioè andare a prendere una decisione, ripeto, 15 secondi prima, secondo me non sarebbe successo nulla. Allora riscrivi il regolamento. Non ci sarebbe stato ma infatti io critico il regolamento, okay, perché è aperto secondo me a miliardi ancora e comunque a interpretazioni. E ripeto, anche un fallo laterale non dato sbagliato può dire: ah cazzo, se non ci fosse stato quel fallo laterale, la palla sarebbe stata degli altri. Scusa, perché guarda, un fallo laterale? Io ti ripeto, il tema è interessantissimo ed è un caso limite, perché 13 secondi sono un tempo biblico, ripeto, però questo non era un fallo laterale e soprattutto l'azione, esatto, ha avuto una sua continuità. Sì, ma allora, tu considera Piero un fallo laterale, un errore su un fallo laterale in cui la palla è stata una delle cose, proprio una delle fatti che sono state, esatto, che sono state, ho capito, ma perché quello pure è un errore, uno sbaglio, ci sarebbe, non è ho capito, lascia perdere che è contemplato, che me ne frega della burocrazia, io sto dicendo di una roba concreta, se un fallo laterale viene, se un sì d'accordo, quello lo sappiamo com'è, non sto dicendo che hanno fatto una cosa contro il regolamento, sto dicendo un'altra cosa: fallo laterale sbagliato assegnato a una squadra piuttosto che l'altra, da quel fallo laterale viene un gol alla squadra cui è stato assegnato per sbaglio il fallo laterale. Che succede? Perché quella cosa lì non succede? È... perché non è previsto. Allora perché quella cosa lì non viene considerata anche quella? Quello allora, dico. Ritorno a ripetere: no, riscriviamo i regolamenti. Anche quello è un errore potenziale. No, riscriviamo i regolamenti, perché il regolamento dice questo. Vabbè. Ascoltatore, mi fate parlare, sì, questo. Vai, certo, Manuel, Alberto, William, eccetera, eccetera. Manuel, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. A lei. Sente, allora io volevo intervenire, mi spiace che non c'è più Auriemma, nel senso che il suo intervento, la sua argomentazione non fa una grinta, cioè se non c'è, se c'è continuità tra un fallo e la generazione dell'azione che poi porta al gol, come quello di ieri di Mandzukic, niente, il gol va annullato perché l'azione, tra virgolette, è irregolare. Peccato però che se questa è la norma, quindi ci deve essere discontinuità, mi domando dov'era allora questa discontinuità in Genoa-Juventus, dove viene dato un calcio di rigore al Genoa con una posizione di fuorigioco. In quel caso addirittura... ma quello è un errore clamoroso, ma però scusami, cioè, non è... La domanda è, ma la classe arbitrale oggi si è accorta adesso di questa norma, oppure il VAR... Cioè, l'arbitro che ha visto quel calcio di rigore che poi ha convalidato... prima non l'aveva dato, poi ha deciso di darlo, avrà visto anche la posizione di fuorigioco. Ma guardi, trattasi di errore, no? Sì, esatto, abbiamo parlato di quell'episodio lì, abbiamo parlato 10 volte, era la seconda giornata ed è evidente come in quella stessa seconda giornata ci fu il Roma-Inter, un rigore per la Roma, così come la prima giornata il Torino ha avuto un gol annullato che è uno degli esempi del fallimento del VAR, perché sì, anche del ieri VAR il Torino, è anche ieri Torino, si può discutere su Benevento-Inter, cioè io, l'ascoltatore credo sia juventino, ha ragione, cioè quel Genoa-Juve non c'è discussione, però non è che siccome in quella circostanza lì è stato commesso un errore, cioè non possiamo andare, la verità è che non possiamo andare a cercare la famosa compensazione, nemmeno adesso, gli errori sono di meno, gli errori sono di meno, ma sono più gravi. Questa è la sostanza. Sì. Sai che succederà? Lo diciamo da prima che inizia il campionato. Purtroppo, lo sai che succederà nella polemica ridicola che c'è in Italia, anti-juventina, eccetera? Succederà che magari la Juventus alla fine dell'anno non vincerà lo scudetto, perché può accadere, e molte persone diranno, quelli che non capiscono una fava, diranno, ecco, vedete, il primo anno del VAR... la Juventus non vince lo scudetto. Io sono certo, te lo scrivo oggi. Che giorno è? Che giorno è oggi? Il 2 ottobre? Il 2 ottobre, te lo posso scrivere? No, ma Cruciani lo so detto, nel caso in cui la Juventus non vincesse lo scudetto, le persone diranno, cioè le persone su internet, dove volete voi, diranno: vedete, primo anno col VAR, la Juventus non vince lo scudetto. Ma matematico, ma già a Napoli, per esempio, no, ma lascia perdere i tifosi. A Napoli, sul web e altrove, nelle radio, leggo da qualche parte, già lo dicono che la Juventus. Non solo a Napoli, non no, solo ma Napoli, per dire a Napoli, perché Napoli, sto parlando della squadra prima in classifica. Non solo a Napoli. Stanno ancora dicendo che ha sulle scatole la Juve e pensa che la Juve, nella sua storia, abbia ricevuto più favori che torti arbitrali in questi anni. Di fronte allo strumento tecnologico, li leggo anch'io i social, dice il contrario. Però ti ripeto, io vorrei tornare a un discorso di principio, di sostanza, anche perché nella partita di ieri abbiamo assistito a episodi sbagliati da una parte e dall'altra, cioè non è che c'è una linea. Per esempio, secondo me la trattenuta su Higuain, che si poteva dare, tu magari non sei d'accordo, Giuseppe, però la trattenuta su Higuain è il classico episodio che forse se non ci fosse stato tutto quello che c'è stato prima, probabilmente era un rigore che si dava, sì, probabile che sia così. Però sai anche che succede in quel caso che incredibilmente l'azione continua, quella su Higuain, mentre se si fosse interrotta l'azione magari qualcuno avrebbe visto più. C'è anche questa cosa incredibile per cui le azioni che continuano è più difficile riguardarle, sì. Le azioni che si interrompono è più facile riguardarle. Se ci fosse stato, che ne so, un calcio d'angolo su quell'azione, magari le cose sarebbero andate diversamente. Comunque hai ragione, andiamo ai fatti, però, perché cioè, siamo pazzi di questo varie delle discussioni, però la realtà è che la Juventus, a mio parere, per come ha giocato il secondo tempo, non meritava di vincere. No, cioè, al contrario di quello che dice Allegri, non meritava di vincere. A me invece la Juve è piaciuta ieri, però continuo a vedere degli spifferi dietro, appunto. Che prima non c'erano, e lo dico con stima infinita, anche sicuramente un inizio di stagione di Buffon che non è all'altezza della sua storia. Poi no, ma non c'è dubbio, secondo me ce l'ha avuto anche a un certo punto, a 26-27 anni, un piccolo passaggio a vuoto. Se ti fai rimontare due gol dall'Atalanta, che per carità è una squadra comunque che ha in Europa League ha fatto 4 punti con due avversari importanti come Everton e Lione, dunque non sono gli ultimi arrivati. No, ma l'altro risultato credo... consecutivo. Ragazzi, faccio il vigile, traffico, torniamo, ascoltatori, 800 24 00 24. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe. Tutti convocati. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Tutti convocati. Si va avanti così, ragazzi. Giuseppe Cruciani, Pierluigi Pardo, ascoltatori, Alberto. Sì, buongiorno a tutti, complimenti a tutte e tre. Grazie. Allora, due cose rapidissime. Allora, una da milanista, la VAR, l'unica cosa positiva che ho visto fino adesso, che tiene calmo gli stadi, perché con due rigori come ieri a Bergamo, se non c'era la VAR li ha messi tutti tranquilli, ha detto la VAR, basta, ed erano tutti belli tranquilli. Poi ho visto il Allegri, finché pareggiavano dava consigli, spostati di qui, ma pacatamente. Come ha segnato il gol la Juventus e ha segnato il secondo gol, sembrava tarantolato, gridava come un ossesso, vai di qui, vai di là, sembrava quasi che avesse paura che la squadra si rilassasse, cosa che poi effettivamente ha fatto. Temo che Allegri abbia la concretezza. Beh, se non ha il polso della situazione, vince. Lui non può avergerlo nessuno. Diciamo, non mi pare Pardo che comportamento abbastanza usuale da parte di lei. Comprensibile, no, nel senso, anche l'uscita dal campo in quel modo, l'uscita dal campo di una persona super delusa, quasi di fretta, no? Non so se l'avete visto quando esce dal campo. È una bella immagine quella di Allegri, è la solita immagine di Allegri quando le cose non sono andate per il verso giusto, anche quando vince in realtà, e magari negli ultimi minuti soffre o c'è stato qualcosa che non l'ha convinto, esce dal campo infuriato. Uh-huh. Quasi non vuole guardare nessuno intorno, no? Cioè si rifugia dentro gli spogliatoi. Andrea, buongiorno. Salve. Dica. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. No, volevo intervenire sull'idiozia che ha detto poco fa Cruciani, che praticamente io già sono una testa di fava, guarda un po', abbiamo stabilito un nuovo record. Sono arrivato prima del fine anno, perché lui dice, guarda, perché se ieri davano il gol alla Juve andava sul 3-1, benissimo. Beh, ma se la Juve vince 3-1 e ruba due punti, a fine anno, se vince lo scudetto di due punti, ecco, dopo cosa veniamo a dire? È perché non c'era il VAR? È perché c'è il VAR? E allora, eccolo sì, qua. Ma non sarebbero rubati, perché magari vincerà 5, qua non sarebbero due punti. Sono scorrettezze, ma sono scorrettezze, come non sarebbero rubati? Ma... siccome col VAR voi... La parola rubati è una parola che si usa da altre parti. Sono rubati, perché se uno vince una partita con un rigore dubbio ed una gomitata... Sì. Sono rubati, il furto è un'altra cosa. Ora io capisco, rubati nel senso metaforico dei punti perché la Juve in quel momento era sul 2-1, il rigore che non c'era, ripeto, secondo me non c'era il rigore, poi sbagliato da Dybala è arrivato dopo, ma io ragazzi, no, no, lui ha detto che a valutare il principio, io capisco che poi per chi è molto tifoso ci mancherebbe altro, no, ma nel senso molti sono convinti che il VAR come diavolo si chiama sia una cosa che penalizzerà la Juventus. Questo è, a parte che bisogna vedere alla fine, bisognerà ricredersi magari su questa cosa qua, come dice Buffon o dicono altri, alla fine voglio vedere alla fine se penalizzerà davvero la Juventus. Però alla fine, se la Juventus non dovesse vincere lo scudetto, e questa telefonata è una testimonianza chiara, molte persone diranno: ecco, il VAR finalmente ha aiutato le altre. Però, io ricordo quando vinse lo scudetto il Verona, no? Vale ancora adesso. Va detta una cosa, che in questa prima sette giornate di campionato le due voci più polemiche sul VAR, non, devo dire la verità, non dal punto di vista specifico, cioè nel senso che non erano voci di gente sul che calcio lamentava, in generale, sul calcio, ma in sul concetto del VAR, sono state quella di Buffon alla seconda giornata dopo Genoa Juve, che abbiamo sentito prima, sì, e quella di Allegri ieri, ovviamente anche perché le grandi squadre fanno opinione, perché hanno grandi personaggi, ma è stata anche l'unica squadra penalizzata oggi, se tu lo vedi dal punto di vista proprio politico, no? Dal punto di vista dialettico, le due prese di posizioni più anti-VAR o quantomeno più dialettiche, più polemiche, che ho il VAR sono del capitano e simbolo della Juve e del suo allenatore, questo dopo sette giornate. No, ce n'è una, ce ne sono altre di dichiarazioni da parte di altre squadre. Altre sugli episodi specifici, cioè Di Francesco si è lamentato, ha ragione, per quel rigore di Roma-Inter. Beh no, però ha detto anche una cosa, mi sembra, sul VAR, qualcosa dopo Roma-Inter si lamentò anche in generale del VAR, comunque vabbè. È vero che dal punto di vista politico, come dici tu, certo, quelle dichiarazioni fanno, diciamo, intendere che alla Juventus per adesso non vada molto a genio, cioè che, ma poi aspettiamo che anche Napoli venga penalizzato. Quello che ha detto Allegri ieri sera è quello che io dicevo un anno fa, quando ancora il VAR non c'era, cioè è sempre stato, noi ormai da anni facciamo questa trasmissione, è sempre stato il mio punto di vista, quando il VAR sembrava impossibile da introdurre, io dicevo la cosa che mi sembra giusta da fare. Che mi sembra assurdo che non ci si possa pensare nel 2017 è che ci sia uno strumento almeno sulle situazioni metriche, sulle situazioni quello è evidente, però siamo ancora lì a discutere su Benevento Inter o su Torino Verona, anche lì, certo, per una questione di millimetri, quindi capisci che poi alla fine si torna sempre al concetto Ferilli, quanto ci piace chiacchierare, quanto ci piace polemizzare, cioè questo è un elemento che non ha io guarda veramente ero preoccupato per il posto di lavoro di Orsiano Cesare e Tiki-Taka, poi l'avrei temuto perché gli voglio bene, però ero veramente preoccupato all'inizio della stagione, una battuta, che sparisse la moviola. La verità è che la moviola è meno, perché ci sono meno episodi se noi guardiamo, perché molti sono corretti, ma quelli che rimangono come errori o come aree di discussione fanno incazzare molto di più di prima. Ma è chiaro, questo è evidente. Non è più l'elemento della velocità dell'azione, non è più l'elemento della difficoltà dell'arbitraggio, non dimentichiamoci mai questa roba, è un po' no, che toglie i paraventi, ci sono i ragazzi che vanno ad allenare sui campi di periferia e che rischiano, infatti, è la cosa più difficile del mondo, questo non va mai dimenticato. Ma certo, quindi due velocità, eccetera, eccetera. Però quello che continuo a dire io è che, insomma, frugare nelle tasche della discrezionalità dell'arbitro e togliergliela, quello sia un furto. A me continua a non piacere questa sorta di rivoluzione. Che devo fare, De Luca? Devo chiudere? Io sono... No, devo fare sono William, ma non c'ha... Come facciamo? Chiamalo. Mancano 50 secondi. William? Chiamalo. Vabbè. William, buongiorno. Taglio corto, la cosa che mi è sembrato più strana ieri sera, riferito all'episodio, è che la VAR è stata utilizzata su un'azione che D'Amato, l'arbitro e il suo assistente hanno valutato. Non erano coperti, non erano stati impossibilitati a vedere quello che era successo. Cioè l'azione è stata valutata regolare e dal di lì si è andati avanti e poi sì, si però c'era un gol, c'era un gol di mezzo. Quando c'è no, il gol di mezzo, esatto. Ogni azione viene. E poi soprattutto questo vale. Cioè il VAR è diverso dalla vecchia prova televisiva, no? La prova televisiva in passato ti ricordi che poteva essere utilizzata soltanto se l'arbitro non vedeva qualcosa. Sì, certo. E qui il principio è diverso. Qui se l'arbitro vede male su uno di quegli episodi codificati. Sapevo io che andavamo lunghi, lo sapevo io. Mi fa venire un'ansia, ragazzi. 55:07. Ciao a tutti, grazie Giuseppe Crociani, grazie Pardo, Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, ciao a tutti, a domani. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!